Terra in vista. L'Expo spiegato a mio figlio e ai genitori dei suoi amici. Prendere le grandi parole dell'Expo e narrarle ai più piccoli. Questa è la missione del nostro programma. Io sono Federico Taddia, con me c'è Telmo Pievani, filosofo della scienza. Ciao Telmo. Ciao. È insomma un bel viaggio attraverso l'Expo, però in questa chiave diversa, perché ci sono parole importanti come quella che abbiamo scelto oggi, biodiversità. Una parola difficile, Telmo. Difficile, una parola recente che però vuole dire qualcosa di importantissimo. La ricchezza della vita. La ricchezza della vita è una parola che i bambini hanno già fatto loro. Beh, sentiamo un po' qual è la loro definizione. Yuhu! Biodiversità è ad esempio quando una persona è grassa, un'altra persona è magra. È qualcosa che è sempre stato diverso. Ad esempio una pesca è coltiva un frutto, lo fanno crescere con dei fertilizzanti, ad esempio chimici, e la roba bio è diversa perché è fatta crescere con dei materiali naturali. La biodiversità è qualcosa che ti viene diverso dagli altri, tipo? Quando qualcosa è diverso? Quando un cibo è biologico. Non lo so. Due cose diverse. Che ad esempio le verdure possono essere varie, non sono tutte uguali. E poi ad esempio le verdure possono essere pomodoro, carciofo e così. Ma il pomodoro può essere anche quello diverso. Tipo ci sono diversi tipi di pomodoro. C'è uno più allungato o uno più corto, più rotondo e così. Eh sì, insomma, una parola non facile, perché c'è il bio e subito si va al biologico, poi però c'è il concetto di diversità. Però, insomma, ci sono delle risposte interessanti, no? Un pomodoro è diverso da un carciofo, questo lo sappiamo. È questa la biodiversità o la biodiversità è il pomodoro diverso dall'altro pomodoro? Già, qui i bambini sono stati molto molto bravi, perché biodiversità vuol dire tutte queste cose messe insieme. È la ricchezza, la diversità della vita, che poi si può misurare nei modi più diversi. Può essere una diversità genetica, quindi che si misura all'interno di ciascun organismo, compreso un pomodoro o quant'altro. Si misura attraverso gli individui l'uno dall'altro. Un pomodoro non è mai uguale a un altro, una pianta non è mai uguale a un'altra, come già scriveva Leonardo da Vinci, ma nemmeno nessun essere umano è uguale ad un altro, anche questa è biodiversità. Poi quella di cui sentiamo parlare di più è la biodiversità misurata a livello delle specie, quante specie ci sono dentro un ambiente, dentro un ecosistema, e quanti ecosistemi ci sono, per esempio, in un paese come l'Italia, e ce ne sono tanti. Tutto questo è biodiversità. Nel mondo la biodiversità non è distribuita in modo uniforme, ci sono dei punti in particolare che si chiamano hotspot, punti caldi, dove c'è tantissima biodiversità concentrata in un posto solo. Pensa che in un frammento, in un fazzoletto di foresta tropicale in Ecuador o in Brasile ci sono migliaia di specie, tante quante ce ne sono magari in tutta Europa, di insetti o di anfibi. Quindi ci sono dei punti nella terra in cui c'è tantissima biodiversità, e rovinare quelli vuol dire uccidere tantissime specie. La biodiversità è il frutto dell'evoluzione ed è anche il motore dell'evoluzione, e quindi è da miliardi di anni che si produce biodiversità ed è andata aumentando nel corso del tempo, nonostante in certi momenti ci sono stati dei crolli della biodiversità che vengono chiamate estinzioni di massa. Sono dei momenti catastrofici in cui la biodiversità è calata tantissimo, e purtroppo adesso siamo dentro uno di questi momenti, perché a causa dell'attività umana la diversità delle specie sta diminuendo tantissimo, tant'è che qualcuno la chiama proprio un'estinzione di massa, la sesta grande estinzione di massa dopo le cinque del passato. Non è una buona cosa, perché quella biodiversità, come i bambini giustamente hanno in qualche modo detto, ci fornisce dei servizi preziosissimi che peraltro non paghiamo. Quella biodiversità ci permette di avere l'acqua pulita, di avere dei suoli fertili, ci permette di avere l'agricoltura. Se non ci fossero certi insetti che impollinano le piante, non ci sarebbero tantissime cose da mangiare per noi nel piatto. Insomma, quella biodiversità è, come dire, è una sicurezza per la nostra salute, quindi non va mai ridotta più di tanto. Tu hai curato il parco della biodiversità all'interno di Expo. Expo è un esempio di biodiversità? io ho collaborato, diciamo, alla zona, al parco della biodiversità, è meravigliosamente un esempio di biodiversità culturale, potremmo dire. Mm-hmm. E la biodiversità è comunque sempre un valore, cioè comunque il fatto che ci siano tante specie diverse che convivono è sempre bello, cioè, o non può creare il caos questo? Diciamo che in generale sì, è sempre bello, perché anche quando ci sono tante specie solitamente gli ecosistemi si autoregolano, quindi è vero che c'è caos e non equilibrio, però a lungo andare gli ecosistemi se la cavano sempre. Il problema siamo noi, il vero caos è quando una sola specie come noi diventa troppo invasiva. Questa è la biodiversità che andremo a scoprire in questa puntata di Terra in Vista. Una filastrocca di Giorgio Celli, le informazioni del traffico e poi si parte. La tigre. C'è chi pensa che la natura sia buona e finisce nelle fauci della tigre. C'è chi pensa che la natura sia malvagia e abbatte a colpi di fucile la tigre. C'è chi pensa che la natura sia bella e mette nella gabbia dello zoo la tigre. C'è chi pensa che la natura sia utile e si fa una pelliccia con la tigre. C'è chi pensa che la natura pensi e seziona il cervello della tigre. C'è chi pensa che la natura sia in pericolo e fa un'oasi di protezione per la tigre. C'è chi pensa che la natura sia Dio e trova l'uomo nella tigre. C'è chi pensa che la natura sia opera di Dio e dissocia l'uomo dalla tigre. C'è chi pensa che la natura sia natura e diventa parente della tigre. C'è chi pensa che la tigre sia la tigre e lascia in pace la tigre. Terra in Vista. Terra in Vista, la biodiversità, andiamo a conoscerla, andiamo a scoprirla e lo facciamo con le domande dei bambini. Yuhu! Quante piante esistono in Italia? Quante piante esistono in Italia? Telmo, c'è qualcuno che le ha contate secondo te? Ma forse sì, direi di sì. Sì, eh? Beh, per tentare di dare una risposta e appunto capire bene il concetto di biodiversità, abbiamo convocato Salvatore Cozzolino, esperto di evoluzione del mondo vegetale e docente dell'Università di Napoli. Federico II, ciao Salvatore, benvenuto a Terra in Vista. Ciao. Salve a tutti. Allora, bella domanda per cominciare subito. C'è qualcuno che si è preso la briga di contare tutte le piante, tutte le specie di piante presenti sul territorio italiano, anche se i numeri non sono precisi ovviamente al millesimo, però sul territorio italiano è ragionevole presupporre la presenza di circa 6.500, forse 7.000 specie. Okay. Ovviamente non abbiamo guardato tutti gli angoli del nostro territorio o in tutti in qualsiasi anfratto del nostro territorio, ma presumibilmente la stima è grosso modo corrispondente a quello che realmente ci è presente sul territorio. Mm-hmm. Che è un numero, per te che sei esperto di evoluzione del mondo vegetale, è un numero che ti sorprende, è un numero che ti accontenta? Pensate che il numero di specie presenti sul territorio italiano, per esempio, è molto più alto di quello di quello invece riportato per nazioni che hanno una superficie molto più grande dell'Italia, pensate a paesi come la Svezia o come la Germania. Questo è relativamente sorprendente, però, se non pensiamo al fatto che l'Italia è al centro del Mediterraneo, che è considerato un hotspot della un particolare punto di particolare ricchezza di biodiversità vegetale. Certo. L'altra cosa che magari forse giustifica il fatto del perché tante specie di piante presenti in Italia è dovuta sicuramente alla grande ricchezza alla grande diversità degli ambienti che generano tanta biodiversità nel mondo vegetale. Noi abbiamo situazioni in cui possiamo passare in 100-200 chilometri da una spiaggia assolata a un ghiacciaio alpino, quindi questo offre un'enorme possibilità di ambienti e un'enorme possibilità di diversificazione per le piante. Infatti l'Italia ha anche una notevole quantità di specie endemiche presenti solo sul territorio italiano. Salvatore, cosa si intende per diversità tra le piante? Noi le vediamo, sono tutte verdi e quindi ci sembrano tutte uguali. Sono quasi tutte verdi, in realtà. Giusto, poi si scopre, scusami, che ci sono anche piante che hanno imparato a fare a meno della fotosintesi, anche quello è un segno di diversità. La diversità delle piante è da intendersi non solo in senso di diversità di forme, piante più alte, più basse, con foglie più larghe, con foglie più strette, ma in realtà quello che forse è più, ancora più interessante è la diversità di funzioni. Ovviamente in un ecosistema, nell'ambiente, una determinata pianta svolge una funzione, poi immaginiamo un albero, che è diversa dalla funzione ecologica anche che svolge, per esempio, una pianta presente, che è tipica di un prato. Mm-hmm. È chiaro che in realtà la biodiversità non solo si esplica in termini di diversità di forme, ma forse è ancora più importante in termini di biodiversità di funzioni, che rendono complesso e fruibile l'ecosistema. Ma queste piante sono tutte, diciamo, selvatiche, o incluso in questo numero anche le specie che noi abbiamo addomesticato in Italia? No. E ci mangiamo? No, l'elenco della flora è quello della flora spontanea d'Italia, ed sono le entità presenti sul nostro territorio. Non dimentichiamo che oggi una parte della nostra flora è fatta anche di piante coltivate dall'uomo, di origine non italiana, ma anche di piante che recentemente hanno cominciato a invadere il nostro territorio, anche un po' in conseguenza del global change, dell'incremento delle temperature e di operazioni conseguenza a volte dell'effetto un po' indiscriminato dell'uomo, mm-hmm, dell'introdurre piante che poi magari sono andate a occupare lo spazio che invece precedentemente occupato dalla flora, dalle piante locali. Certo. Salvatore, quella stima si riferisce alle piante della nostra flora. Mm-hmm. Salvatore, una domanda, ma queste piante, cioè, tra di loro sono parenti? Esiste un grado di parentela tra le piante? Certamente un grado di parentela tra le piante, come esiste un grado di parentela tra gli animali. Noi, insomma, se dobbiamo accomunarci con qualcuno, ci viene più ovvio accomunarci subito con i primati, perché condividiamo una serie di caratteristiche non solo morfologiche ma anche evolutive. Esattamente analogo discorso vale con le piante. Per esempio, la presenza stessa del fiore, che è l'organo riproduttore delle piante, divide, se volete, un po' la maggior parte degli organismi vegetali superiori in due gruppi: quelle che hanno i fiori come organo riproduttore e quelle che invece non hanno i fiori, rispettivamente le angiosperme e le gimnosperme. Le gimnosperme, banalizzando, possiamo pensare ai pini, dove gli organi riproduttori sono praticamente le pigne. Certo. E poi ovviamente piante con maggior grado di parentela tra loro sono anche piante che si somigliano sempre di più morfologicamente, cioè che hanno fiori molto simili, forme molto simili, anche se a volte anche in questo non dobbiamo farci trarre in inganno, perché possiamo avere piante che non sono assolutamente imparentate fra di loro, mm-hmm, ma che poi acquisiscono caratteristiche morfologiche molto simili perché magari occupano la stessa funzione nell'ecosistema. Pensiamo ad esempio a alcune specie di alberi che querce e platani, che apparentemente sono tutti e due alberi ma che non sono assolutamente imparentate fra di loro, sono molto lontani dal punto di vista di parentela, però tutte e due hanno acquisito la forma e l'habitus di alberi. È bello parlare di albero, della vita con l'albero, c'è anche l'albero appunto, c'è questo grande cespuglio, esatto, di diversificazione. Grazie davvero a Salvatore Cozzolino, complimenti e buon lavoro. Ciao Salvatore. Ciao. Ciao a tutti. Expo Pub, 100 cose da sapere per stupire mamma e papà. Kirghizistan è arroccata come un'aquila sulla vetta dell'Asia centrale. È la lontana e misteriosa Repubblica del Kirghiz. Il suo territorio è costituito per l'80% da montagne, alte anche oltre 7.000 metri. Pecore, capre, cavalli e yak popolano il paesaggio e sopravvivono tutte le tradizioni dei cavalieri della steppa, tra le quali si distingue l'antica disciplina della caccia con l'aquila. Il piatto più popolare è il langman, pasta fresca piatta condita con carne di montone in piccoli pezzi e lasciata stufare insieme a carote, patate, aglio e con l'aggiunta di molte spezie. Questi sono gli Expo Pub, tante tantissime curiosità estrapolate dai padiglioni di Expo, questa è la biodiversità culturale. Telmo, continuiamo a parlare della nostra Italia, perché insomma questa grande varietà è davvero sorprendente ed è uno dei, così, fiori all'occhiello del nostro paese. Beh, uno non se l'aspetta davvero. Quasi, forse più di 7.000 piante soltanto in Italia. Abbiamo battuto la Svezia e la Germania. Quando uno chiede, ma in Europa quali sono i paesi con più piante, pensa proprio a quelli, e invece l'Italia. Perché questa stranezza? In realtà ci sono delle ragioni storiche e proprio di ambiente fondamentali. L'Italia è come una grande piattaforma messa dentro in mezzo al Mediterraneo, no? E ha queste due caratteristiche, che dalle Alpi alla Sicilia, cioè, attraversa una grande quantità di climi, di ecosistemi diversi gli uni dagli altri. Già solo in Veneto tu puoi andare da una spiaggia marina a un ghiacciaio alpino in poche centinaia di chilometri. Questo è un fatto eccezionale che dà grande ricchezza e quindi grande biodiversità. Poi però c'è un altro motivo molto importante. Noi lì in mezzo al Mediterraneo, ed avendo un territorio così irregolare, montagne, pianure, zone con più acqua, con meno acqua, siamo anche stati sempre un territorio di passaggio. Da sud verso nord, da est verso ovest, l'Italia è sempre stata attraversata da piante, animali e anche da popolazioni umane. Se tu metti insieme l'irregolarità del territorio e essere un luogo di passaggio, questo è la ricetta fondamentale per produrre biodiversità. Quindi questa è una grandissima ricchezza dell'Italia, e la cosa sorprendente, molto bella, che poi è diventato uno dei temi fondamentali dell'Expo italiano a Milano, è che proprio questa diversità biologica e proprio questo essere l'Italia un laboratorio di diversità ha prodotto una grande diversità culturale, anche perché anche le culture si differenziano per ragioni abbastanza simili: spostamenti di popolazioni, ibridazioni, meticciati, incontri, isolamenti. Proprio come le piante, anche le culture hanno queste caratteristiche di diversificazione, e la cucina italiana, il cibo italiano, il modo con cui ci nutriamo in Italia, che è il tema di Expo, deriva proprio da questa diversità italiana. Cioè la gastronomia anche italiana è così eccezionale, famosa nel mondo, grazie a questo retroterra che ha la biodiversità biologica e culturale insieme. E rimaniamo con la biodiversità, però in chiave artistica. Expo Kids. Expo Kids. Dire, fare, giocare. Biodiversità artistica, questa è la sfida di oggi per Alessandra Falconi, la nostra atelierista del metodo Bruno Munari e collaboratrice del blog disegnangolo.it, che in ogni puntata e per ogni parola ci propone cosa fare. Ciao Alessandra! Buongiorno a tutti voi! Ciao! Allora, biodiversità, cosa ti ha ispirato? Allora, come si fa a diventare dei paladini della biodiversità? Ho pensato che i bambini in realtà, grazie alla loro grande passione del collezionare, un po' lo sono già, perché capita di trovare nelle tasche dei bambini, in qualche angolo della loro cameretta, una serie di oggetti, insetti, strumenti biodiversi che in effetti raccontano un mondo. Come si fa a trasformare questa attività del collezionare tutto quello che mi piace, dalla carta raccolta in terra a quell'oggetto strano che magari ho trovato in casa della nonna? Lo si fa organizzando la propria collezione, mettendola in mostra, classificandola ad esempio, quindi trovando dei criteri per raccontare al mondo la diversità degli oggetti che mi appassionano. Il bambino di solito utilizza appunto le scatole, scatoline, tutto quello che ha a disposizione per casa. Un'idea che mi piacerebbe però dargli è quello di collezionare e quindi organizzare poi una mostra attraverso il ghiaccio. Come faccio? Immaginiamo di avere tantissimi bottoni. Sì. Bottoni, li metto nel freezer con un pochino d'acqua, creo delle forme ghiacciate ma trasparenti che mi permettono di vedere il mio oggetto, e quindi posso inventarmi una galleria d'arte, probabilmente della durata di 10 minuti con le temperature di quest'estate, per raccontare a genitori e amici tutti i miei oggetti amati e collezionati. E una volta che la collezione si è sciolta posso inventarmi un nuovo gioco. È fantastico, è vero, un'idea a costo zero, però molto bella, molto efficiente. È così che è nata l'idea della mostra temporanea, giusto? Esatto. Erano opere che si sono sciolte. In realtà, Telmo, ci sono anche opere che per fortuna non si sono sciolte. Mi piaceva raccontare ai bambini di Anna Maria Luisa de' Medici, perché grazie a questa grande donna del Settecento la sua collezione oggi è patrimonio dell'Italia e dell'umanità, con la splendida Galleria degli Uffizi di Firenze. Quindi possiamo dire che si comincia con piccole collezioni per arrivare poi a chissà invece quale tipo di collezione. E tutto ciò può essere messo in un cubetto di ghiaccio. Grazie Alessandra, ricordiamo che tutto ciò si può vedere, anche le opere citate, sul blog disegnangolo.it. Ciao e al prossimo Expo Kids. A presto. Grazie a voi, ciao. Una filastrocca, la pubblicità, poi ancora qua con Terra in Vista. Case. Sta la volpe nella tana, nello stagno sta la rana, nel pollaio la gallina e nel bosco la faina. Sta la mucca nella stalla, così pure la cavalla. Nella casa sta il bambino e nel nido l'uccellino. Ci son case di ogni specie ed ognuno ne è felice. Terra in Vista. Bentornati a Terra in Vista, sempre Federico Taddia e Telmo Pievani. L'obiettivo che ci siamo dati è ambizioso ed è quello di spiegare l'Expo ai nostri figli e anche ai genitori dei loro amici, quindi grandi e piccoli, per capire i temi che contraddistinguono e accompagnano l'Expo. La parola di oggi è una parola importante, una parola complicata, una parola che contiene dentro un grande mondo, il nostro mondo, e la parola è biodiversità, parola che stiamo cercando di capire proprio partendo dalle domande dei più piccoli, come questa. Yuhu! Le piante si possono estinguere? In effetti è vero, perché l'estinzione spesso, quasi sempre, è abbinata al mondo animale, vero Telmo? Beh sì, ma anche le piante sono organismi viventi, quindi mi aspetto che anche loro avranno una sorte simile. Cioè esiste il dodo delle piante? Sì. Sì, ok. E per avere la risposta abbiamo convocato un esperto in materia, come sempre. Diamo il benvenuto a Maurizio Casiraghi, docente di biologia presso l'Università Milano Bicocca e presidente della Società Italiana Biologia Evoluzionistica. Ciao Maurizio. Benvenuto a Terra in Vista. Ciao. Ciao, ciao, ciao, grazie per l'invito. Allora, le piante si possono estinguere? Sì, assolutamente, si possono estinguere come tutti gli organismi che sono stati e sono presenti sulla Terra, quindi non sono diversi dagli altri. Vi ho sentito, avete ragione, quando si parla di estinzione si pensa sempre a qualche animale, ma anche le piante sono soggette appunto a questa estinzione. Fate conto che dalla storia, inizio della vita sulla Terra, quasi 4 miliardi di anni fa, in realtà la stragrande maggioranza degli organismi che sono comparsi si sono estinti, quindi le piante hanno subito questo processo naturale. Mm-hmm. Ecco, però magari appunto per l'animale ci si emoziona, ci si rattrista, per le piante un po' meno, questo credo sia un fatto culturale. Ma quando è che una pianta si estingue? Si estingue, anche qui non è diverso dall'estinzione degli animali, si estingue quando la popolazione diventa così piccola che alla fine non ci sono più organismi che sono in grado di riprodursi e quindi scompare. A volte si estinguono anche per dei casi molto così collaterali, come capita spesso nelle estinzioni. Mi viene in mente il caso di questa pianta, la calvaria, perché è un caso famoso, che è famoso, che stava alle isole Mauritius, e sostanzialmente lei poteva crescere solo perché il dodo mangiava i semi e quindi poi mettendoli poi quando faceva i suoi bisogni, i semi che erano passati nell'intestino del dodo poi erano pronti per germinare. L'uomo ha estinto il dodo e sostanzialmente si stava quasi estinguendo anche la calvaria. Per fortuna ci siamo stati dei ricercatori che sono arrivati, hanno capito che questa era la situazione e nonostante questo hanno salvato proprio in extremis la calvaria introducendo i tacchini. Insomma, quindi un discorso di questo genere. Quindi sì, si estinguono per casi anche così banali a volte anche. E il colpevole invece in altri casi, chi è il killer nelle estinzioni? Ma il killer, anche questa Telmo, una domanda molto difficile questa, perché è stato stimato che più o meno una specie quando compare ha un lasso di tempo che varia a seconda dei gruppi tra i 3-4 milioni di anni, dopodiché si estingue. Questo è lo storico, quello che abbiamo visto. Le cause sono tantissime, le variazioni climatiche, le condizioni che cambiano, ovviamente a volte anche l'intervento dell'uomo nell'ultimissima fase, ma precedentemente anche eruzioni piuttosto che cambiamenti di clima, cioè insomma sono tante le cause, non esiste un'unica causa per l'estinzione, non c'è una sola pistola fumante, come direbbero i colleghi inglesi. Ecco, e quando si parla di biodiversità, qual è l'allarme legato al rischio estinzione? Ma col mondo delle piante la cosa diventa, e qui ci colleghiamo un po' anche al tema di Expo, uno dei problemi che noi possiamo avere è quella che noi chiamiamo l'erosione genetica. Cioè l'idea di questo concetto, che appunto è l'erosione genetica, è che in circa 10.000 anni, che è un po' la nascita dell'agricoltura 10-12.000 anni fa, l'uomo ha prodotto migliaia di varietà coltivate di ogni singola pianta. Sì. E il problema è che queste varietà sono spesso degli adattamenti locali a singole zone, a singole regioni, che sono poi quelle che spesso l'Italia vanta come i prodotti incredibili della sua biodiversità agricola. Il punto è che nel mondo c'è in questo momento una grande semplificazione delle varietà coltivate e quindi si riducono tanto quelle che vengono chiamate le cultivar, che vengono appunto messe poi in pieno campo. E quando c'è questa riduzione della biodiversità, sia quella diciamo del mondo selvatico sia quella del mondo coltivato, il problema è che c'è meno variabilità e c'è meno possibilità di resistere a parassiti piuttosto che a malattie e a cose di questo genere. Allora gli organismi vanno incontro a dei pericoli. Oggi uno dei casi più famosi è quello della banana. Tutti abbiamo presente, quando andiamo al supermercato, queste banane che si chiamano Cavendish, che è ormai la varietà che è coltivata nel 90% dei campi che hanno le banane. E il problema è che sta arrivando un virus che le sta attaccando e la banana è in grave pericolo, perché non abbiamo più le altre banane che possono essere resistenti a queste forme. Ecco, quindi queste grandi riduzioni della, in questo caso, agrobiodiversità sono un problema. Insomma, questo lo si nota soprattutto, no, quando si va in giro per mercatini, a volte dei frutti dimenticati, uno pensa alla mela e ne ha in testa due o tre, poi invece arrivi questi banchetti e trovi tantissime tipologie di mele e lì capisci quello che stiamo perdendo. Adesso ho fatto un esempio molto banale, molto facile, però può essere veramente traslato, spostato su tantissime altre specie. Grazie davvero Maurizio, buon lavoro. Grazie a voi, anche a voi. Ciao, a presto. Ciao. Expo Pub, 100 cose da sapere per stupire mamma e papà. Bahrain. Sapevi che tradizionalmente le foglie di banano e la buccia del frutto venivano utilizzate dalle donne del Bahrain per rimuovere la pelle secca dal corpo? Inoltre, un trattamento comunemente applicato alle spose, il giorno prima del matrimonio, consisteva nell'impastare le foglie di banano e l'olio per trattare i piedi con un impacco di 2 ore, prima dell'applicazione dell'henné, la tintura ornamentale esibita durante le cerimonie. E i segreti di questa preziosa pianta non finiscono qui. Le foglie di banano, se bollite insieme ai semi di melone, danno origine ad un impasto che aiuterà ad ammorbidire la pelle del viso. Il banano, con la sua ricchezza di utilizzi, è uno dei primi esempi di pianta domestica ed è coltivato dall'uomo fin dall'800 avanti Cristo. I nostri Expo Pub, le nostre curiosità e poi le storie di Telmo Pievani, questo discorso dell'estinzione delle piante, dove ti porta? Cosa ti ha ispirato, Telmo? Ma allora, guarda, le piante si estinguono, abbiamo visto, per tante ragioni. Una di queste è il fatto che a volte arrivano delle altre piante da altri posti nel mondo che soppiantano quelle che sono nate in un certo luogo. Sono le famose specie invasive, che ci dicono una cosa molto importante, che le piante apparentemente, anche realmente, non si spostano. In realtà le piante hanno fatto il giro del mondo. Le piante viaggiano. Un po' perché le portiamo noi, un po' perché da sole sono capaci di viaggiare. Un seme è capace anche di superare l'oceano, volendo. Beh, uno dei grandi temi di Expo è come ci alimentiamo. Senza i viaggi delle piante noi non avremmo l'alimentazione che conosciamo oggi, in particolare la cucina italiana. Quindi il cibo si è evoluto, potremmo dire, viaggiando insieme con noi. Gli esempi sono tantissimi. Il mais, lo sappiamo tutti, viene dal Messico. Il primo popcorn è stato scoperto dagli archeologi qualche tempo fa, è scoppiato circa 6700 anni fa già. Sì. Sì, e poi il mais è arrivato in Europa e diventa la polenta. Dalle Americhe, se pensi soltanto 5 secoli fa, cioè pochissimo tempo fa, sono arrivate le patate. Pensa che nelle Ande, lo dicevamo prima con Maurizio Casiraghi, ci sono ancora adesso più di 5.000 varietà diverse di patata. Sono arrivati i pomodori, è arrivato il cacao. Tu pensa come sarebbe diversa la cucina italiana oggi senza le patate, i pomodori e queste specie. Il tabacco è arrivato dalle Americhe, il melo invece è nato in Kazakistan, il vino, il nostro amato vino, è nato tra la Georgia e l'Iran, il caffè è nato in Etiopia, poi è arrivato in Italia tramite Padova e adesso lo coltivano principalmente nelle Americhe. Pensa che giro che ha fatto. La Coca-Cola è fatta di coca sudamericana e cola africana. La banana è un'altra storia incredibile, tutti pensiamo banana, beh, Africa, Sud America, sbagliato, la banana è nata in Nuova Guinea e poi ha fatto anche lei un lunghissimo viaggio, adesso la coltiviamo prevalentemente in Sud America e abbiamo visto adesso che coltivando sempre lo stesso tipo, se arriva un parassita che lo colpisce, colpisce tutti. Quindi è una storia di grandi viaggi. E a proposito di banana, non so se sai che l'evoluzione, a proposito di parentele, ci dice che anche tu, Federico, condividi quasi il 50% del tuo DNA con la banana, compresa la Cavendish di cui parlavamo prima. È una buona notizia? Beh, se anche tu diventi una Cavendish, siete tutti uguali, tutti cloni, no, non è una buona notizia. Ecco, adesso sono preoccupato, ma per fortuna vado a giocare con Andrea Vico. Expo Kids. Dire, fare, giocare. È il momento della scienza a terra in vista, ma della scienza pratica, degli esperimenti proposti da Andrea Vico, giornalista scientifico di TuScience, www.tuscience.it, per conoscere tutte le attività proposte dall'associazione. Ciao Andrea. Ciao a tutti. Eccoci. Ho appena scoperto di essere parente di una banana, quindi sono un po' scosso. Noi lo sapevamo già, con TuScience abbiamo un bellissimo laboratorio che si chiama Ispettore Cavendish e il giallo della banana scomparsa, sì. E lo portiamo nelle scuole proprio a raccontare come, appena detto Telmo, siamo anche in qualche modo noi corresponsabili della scomparsa o del rischio di scomparsa di alcune specie vegetali. Fantastico, vedi che gli esperimenti poi servono per capire meglio, per apprendere quello che gli esperti ci dicono. Cosa ci proponi oggi? Allora, prima una sfilza di numeri: 39, 9, 286, 490, 67 più 6, 20. Non giocarteli all'otto, no. Sono le specie che un grandissimo botanico e agronomo piemontese, italiano, ha raccolto e catalogato a metà 1800. In Nord Italia c'erano 39 specie di albicocche, 9 tipi di fichi, 286 mele, 490 pere, 67 pesche e 6 pesche noci, 20 prugne, tutte diverse. Se andassimo a cercarle oggi in un supermercato, in un mercato di contadini, troveremmo poche manciate di pere o di mele, ma non tutta questa varietà, che ce la siamo un pochettino persa per distrazione. Però per giocare in maniera pratica e capire la biodiversità che è intorno a noi, oggi andiamo a costruire un aspira insetti. Sì. E quindi primo step: andare in farmacia e comprare un contenitore sterile per le urine. Non vi serve per andare a fare l'esame per l'urina, ma perché è il punto di partenza perfetto. In ferramenta trovate, cercate cioè un pezzo di 50 cm di tubo di gomma flessibile e trasparente che abbia almeno 6 mm di diametro interno, quindi può essere più o meno ciccione, ma 6 mm di diametro interno, e lo tagliate a metà avendo due pezzi da 25 cm. Poi serve ancora un pezzettino di garza, ma la usiamo dopo. Okay. Con delle forbici o un trapano, se mamma o papà vi aiutano, fate sul tappo del contenitore delle urine due fori, esattamente del diametro del vostro tubo flessibile di gomma, in modo da incastrarci i due pezzi da 25 cm. Li fate sporgere verso l'interno del tappo di non più di mezzo centimetro, giusto che siano incastrati bene. Sigillate il tutto con un bel giro di colla o di silicone e quindi avete questo tappo che può essere chiaramente riavvitato sul vasettino di plastica che è grande come uno yogurt ed è trasparente. Con questi due sorte avete fatto una sorta di oggetto con due grosse antenne che spenzolano ai lati. Sì. All'estremità di uno dei due tubicini avvolgete un quadratino di 4x4 cm di garza con un elastico. E quello è il lato dove appoggerete le labbra per aspirare. Con questo oggetto semplicissimo andate in un bosco e quando vedete un insetto avvicinate quatti quatti molto lentamente il tubicino senza garza in prossimità dell'insetto e dall'altro tubicino, quello con la garza, aspirate più potentemente che potete. In questo modo e senza che venga danneggiato l'insetto viene aspirato dentro il vostro vasetto e con una fantastica lente di ingrandimento potrete andarlo a studiare. Quando poi l'avete conosciuto a sufficienza, chiaramente lo liberate. Ah, ok, perfetto, ero lì che... Se non funziona, però al massimo mangi un insetto, che poi non è una cosa vabbè, così strana. Questo faremo una puntata sul cibo e gli insetti e avremo comunque anche... Allora, se voi andate in un bosco con questo oggetto, con facilità 25-30 oggetti, cioè, insetti diversi, li potete trovare. Okay. E questo fa vedere come questi boschi, i nostri boschi, siano ricchissimi di biodiversità. Parliamo di insetti chiaramente perché sono quelli avvicinabili in questo modo, ma in un bosco ci sono almeno 500 specie diverse tra piccoli mammiferi, rettili, ovviamente alberi, fiori. Insomma, se riuscite ad aspirare anche un istrice, fatecelo sapere, vuol dire che avete un gran fiato. Grazie davvero ad Andrea Vico. Ciao Andrea, alla prossima. Ciao. Ciao. Adesso una filastrocca, il traffico e poi ancora terra in vista. Chi lo sa? Chi lo sa quante sono le stelle sul tetto del cielo? Quanti pesci negli abissi del mare? Quante le genti su questa terra immensa? Chi lo sa dove vola il sole ogni sera? Dove invece si accende la luna? Dove comincia l'aurora? Dove finisce l'orizzonte infinito? Chi lo sa? Chi lo sa? Terra in vista. Terra in vista, la biodiversità, grande protagonista di questa puntata, ma non solo, anche grande protagonista in Expo, perché proprio della biodiversità italiana si parla nel Vivaio Italia, all'interno del padiglione italiano, e i contenuti sono ispirati proprio al Giardino della Biodiversità di Padova, di cui tu, Telmo, sei il curatore degli allestimenti. Che cos'è questo giardino? Beh, una nuova struttura che dialoga con un'antica storia, perché è ospitata dentro l'Orto Botanico di Padova, che è il più antico orto botanico universitario al mondo, ha quasi 5 secoli di vita, quasi mezzo millennio, ed è una grande serra avveniristica con un soffitto leggerissimo di aria compressa incredibile, dentro la quale c'è, dentro questa serra, ci sono tutti gli ecosistemi del mondo, una foresta tropicale, una foresta un pochino più fredda, poi il Mediterraneo, poi i deserti, e il visitatore all'interno del giardino fa una sorta di grande viaggio nello spazio, negli ambienti, ma anche nel tempo, perché la storia è dedicata proprio al rapporto tra le piante e l'uomo, come noi abbiamo addomesticato le piante, di cui parliamo in tante delle nostre puntate, ma anche di come le piante hanno addomesticato noi. Non lo diciamo mai, ma le piante, attraverso la medicina, l'alimentazione, appunto il cibo, i materiali come il legno, la carta, la gomma, hanno letteralmente cambiato la nostra vita. Noi di piante ci cibiamo, ma ci vestiamo con le piante, facciamo tutto con le piante, ci hanno cambiato la vita e ci hanno addomesticato anche loro. Questo è il Giardino della Biodiversità. Secondo me la domanda che ci ha posto il bambino potrebbe suggerirti un nuovo ospite. Yuhu! Esistono le piante robot? Ce l'hai la pianta robot nel tuo giardino? No, non ce l'ho ancora, però c'è una parte dedicata alle piante nel futuro e direi che sarebbe perfetta. E per capire se esistono le piante robotiche abbiamo convocato Barbara Mazzolai, ricercatrice senior e coordinatrice del Centro di Microbiorobotica di Pontedera dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Ciao Barbara! Ciao a tutti! Allora, diciamo che insomma, le piante robotiche esistono proprio perché Barbara le ha inventate. È vero Barbara? È vero, sì. Recentemente proprio abbiamo inventato la prima pianta robotica al mondo. Quindi è un robot che, come dice il nome, prende ispirazione dalle piante, in particolare dalle radici delle piante, e lo abbiamo realizzato perché, come fanno le radici, anche il nostro robot va a esplorare il suolo e cresce andando a cercare degli stimoli nell'ambiente, quindi ad esempio alla ricerca dell'acqua oppure dei nutrienti che servono alla pianta per sopravvivere. Al nostro robot servono perché va a dire per esempio all'agricoltore che ci sono delle concentrazioni interessanti, no, per il suolo, quindi per la coltivazione e così via. Fantastico. Allora, si chiama Plantoide, questo è il nome tecnico. Si chiama Plantoide. E Barbara, quando dici che la pianta cresce, cosa significa? Significa che nella natura le radici crescono aggiungendo, diciamo, nuove cellule, quindi nuovo materiale vivente, dalla parte più lontana dal fusto. Quindi lo fanno perché crescono in un ambiente che è veramente complicato, perché ci sono tanti attriti. Immaginatevi queste particelle di suolo che continuamente toccano le radici, no? Quindi volendole potrebbero danneggiare. Invece le radici riescono a crescere perché proprio spingono soltanto la punta più estrema del loro corpo e riducono le pressioni per muoversi. Lo stesso il nostro robot cresce per aggiunta, in questo caso, di materiale che non sono cellule ma è un materiale artificiale, però cresce per aggiunta di strati sempre a livello della punta, cioè della parte più lontana del nostro tronco robotico, e quindi in questo modo si muove facilmente nel suolo abbattendo le pressioni, gli attriti e così via. Ma quindi rispetto agli altri robot che conosciamo, più antropomorfi e più simili ad animali, questi letteralmente evolvono, cioè si trasformano, crescono, cambiano? Esatto, questo cambia e cambia proprio il proprio corpo, perché da un istante, diciamo, all'altro si accresce, no? Quindi quello che noi vediamo alla fine sono delle radici che sono cresciute seguendo proprio delle informazioni che ricevono nel suolo. Quindi il movimento non è casuale, ma in realtà avviene perché il robot decide di crescere verso l'acqua, ad esempio, o seguendo la gravità, che per le radici è uno stimolo positivo. Cioè quello che vediamo è che le radici tendono ad andare verso il basso, al contrario di quello che fanno le parti apicali, no? Le foglie, che crescono contro la gravità, no? Quindi, e quindi anche il nostro robot ha tutte queste informazioni nella sua punta, e sulla base di queste informazioni che sono date appunto da questi sensori si dirige da una parte e dall'altra. Quindi il corpo effettivamente di questo robot cambia, non è sempre lo stesso. Ma è anche una pianta da parco giochi, cioè nel senso un parchetto con i plantoidi, ce lo dobbiamo immaginare. Che forma ha il plantoide? Allora, il plantoide ha proprio la forma di una pianta, perché ha un tronco. Sì. Che serve, in realtà serve come bellezza, ma serve anche perché all'interno del tronco c'è il materiale artificiale che viene aggiunto poi nella radice, ma ci sono anche tutti i sistemi di controllo, quindi l'elettronica, le batterie eccetera, e poi ha dei rami con delle foglie, e queste foglie sono anch'esse ispirate ai materiali delle piante, perché questi materiali sono molto interessanti perché riescono, diciamo, a muoversi anche a seconda delle concentrazioni, ad esempio, di umidità nell'aria, della temperature. Quindi anche questi materiali che noi abbiamo fatto, che sono proprio a forma di foglia, rispondono alle variazioni di umidità. A cosa potrebbero servire? Ad esempio a fare dei sensori di umidità, per cui io potrei avere un plantoide anche in casa. Sì. Che mi dà delle informazioni sulla qualità dell'aria, ad esempio sulla temperatura, sull'umidità dell'aria, no? Quindi potrebbe anche essere un oggetto non soltanto visto all'esterno, ma anche un oggetto che ci aiuta in casa e che è anche, se vogliamo, piacevole da vedersi. Va potato? No. Va potato? No, per ora no. Magari in futuro prevediamo anche questa funzione, così almeno diventa anche un gioco. No, sto pensando a quella povera ape che si andrà a posare sulla foglia del plantoide. Che sorpresa! Ci rimane malissimo. Sì, malissimo. Ci rimane malissimo. No, speriamo di no, magari rimane piacevolmente colpita. Barbara, grazie davvero per averci fatto conoscere il plantoide, e complimenti per il bellissimo lavoro che state facendo. Grazie, ciao, a presto. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Expo Pub, 100 cose da sapere per stupire mamma e papà. Bielorussia. La Bielorussia, detta anche Russia bianca, è uno stato dell'Europa orientale. Tra i suoi piatti più famosi vi è la carpa al forno, cotta in panna acida, maionese, olio vegetale, cipolla e spezie. Altra specialità culinaria bielorussa sono gli zrazi, polpettine di grano saraceno ripiene di carne, servite insieme alle cipolle fritte, fin dagli antichi tempi, del Granducato di Lituania. Durante le vacanze e le festività, i bielorussi accompagnano i pasti con la bevanda alcolica più famosa del territorio, la vodka, preparata con acqua e alcol etilico purificato. Le vodka più popolari sono quella di pane, quella di betulla, quella di mirtillo rosso e quella al miele. E queste sono le cose che abbiamo imparato oggi. che l'Italia è il paese più biodiverso d'Europa. Che il caffè è nato in Etiopia, poi lo hanno portato in Italia e ora è coltivato nelle Americhe. Insomma, ha fatto il giro del mondo. Che non è furbo avere banane tutte uguali, perché si estinguono prima. Che anche le piante hanno il loro dodo. E anzi, alcune piante hanno sentito la mancanza proprio della cacca del dodo. Che hanno inventato robot che letteralmente mettono le radici. E questo è Terra in Vista. Finisce qui questo viaggio bellissimo nella biodiversità. Abbiamo imparato davvero tantissime cose. Grazie Telmo. A presto. Vi ricordo che la puntata è scritta con Silvia Righini e Margherita Aina. Oggi alla parte tecnica si sono alternati Carmelo Lauricelle e Valeria Bernardi. Le attività pratiche invece sono state proposte come sempre da Andrea Vico e Alessandra Falconi. Tutto ciò lo potete ritrovare in rete sul nostro sito, il sito radio24.it. andate nelle pagine di Terra in Vista e lì potete riascoltare gli Expo Pop, le filastrocche, gli esperimenti, le domande dei bambini e soprattutto le risposte degli esperti. Se volete scriverci, l'indirizzo è terrainvista@radio24.it. L'appuntamento alla prossima puntata e alla prossima parola. La mappa del tesoro. Nella sabbia in riva al mare, quante cose puoi trovare con l'aiuto delle onde, anche quelle più profonde. Puoi trovarci una conchiglia, un bel sasso o una bottiglia, dove dentro c'è un messaggio che va letto adagio adagio. È una mappa del tesoro, scritta con l'inchiostro d'oro. Ha la forma di un gran tondo. Quel tesoro è il nostro mondo.